Letture di Radio 24. Stando alle ultime rilevazioni, pare che per un terzo degli studenti di elementari e medie la grammatica rappresenti ancora uno scoglio insormontabile. Ma queste notizie interessano poco ai mezzi di comunicazione, che continuano a preoccuparsi solo degli insegnanti precari. Stando ai resoconti dei mezzi di comunicazione, sembra che la sorte degli insegnanti precari sia l'unico tema che abbia rilievo quando si parla di scuola. Sarà mai possibile assorbirli tutti? L'argomento tiene banco da tempo. Poi, a un certo punto, esce una notizia che dovrebbe interessare l'opinione pubblica, più di quelle che riguardano il destino dei precari. Vengono diffusi i risultati dei test di valutazione sulla preparazione degli studenti. Sono risultati che fotografano la condizione grave in cui versa la scuola. Oltre alla tradizionale impreparazione in matematica, gli studenti italiani risultano, a grande maggioranza, privi di competenza linguistica, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono, in sostanza, dei semi-analfabeti. La notizia viene data con risalto dai mezzi di comunicazione. Ne nasce forse un grande dibattito? No, naturalmente. Il giorno dopo non se ne parla più. Il tema scompare con la stessa rapidità con cui è apparso. Il fatto che la scuola sia un'industria che produce ignoranza non interessa a nessuno. Dopo un attimo di esitazione, ecco che si ricomincia subito a parlare dei precari. Perché? Perché la vera ragione sociale della scuola non è, ormai da molto tempo, quella di formare studenti, ma quella di occupare docenti. La scuola è soprattutto una macchina per produrre occupazione, mentre la formazione degli studenti è lasciata al caso o all'impegno di qualche eroico insegnante. Il mezzo si è mangiato il fine. Si parla dei precari perché se la scuola serve soprattutto a produrre occupazione, l'esistenza di precari non assorbibili segnala un difetto del meccanismo. Se il fine fosse la formazione degli studenti, ci preoccuperemmo, prima di tutto, della preparazione dei docenti, delle loro capacità didattiche e delle responsabilità dei dirigenti scolastici. E solo in questa prospettiva valuteremmo anche la questione dei precari. Metteremo sotto accusa il modo in cui la scuola non trasmette conoscenza. Ci domanderemo che cosa accade nelle aule. Chiederemo seri provvedimenti contro i docenti che insegnano male. Ma siccome di tutto ciò l'opinione pubblica se ne infischia, siccome l'idea che bisognerebbe reclutare bravi docenti con cui sostituire quelli cattivi non piace o non interessa, eccoci qua a discutere solo della sorte dei precari. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Scuola di ignoranza, dal numero del 30 settembre della rivista 7. Letture di Radio 24. Italia, paese dello spreco alimentare. Da una parte i continui sequestri di cibi scaduti da parte dei NAS, dall'altra i cibi che lasciamo scadere e che finiscono poi nella spazzatura. Una media di 300 kg a testa ogni anno. Ma i cibi scaduti sono davvero tutti da buttare? Prima le cifre ufficiali, incontrovertibili, tanto per inquadrare la questione. 8,2 milioni di litri di succhi di frutta, latte e bibite varie tolti dal commercio. 2,3 milioni di barattoli di pelati, pasta, biscotti, yogurt, formaggio, carne in scatola e cibi confezionati sequestrati. 780 centri di produzione alimentare chiusi o pignorati. Il bilancio voluminoso riguarda il lavoro solo da gennaio a luglio dei NAS, i carabinieri del nucleo antisofisticazione. Numeri che indicano quanto la tutela della salute pubblica stia a cuore alle forze dell'ordine e quanto le singole persone la cura della propria. In agosto l'istituto di ricerca Censis, oltre il 60% degli italiani, aveva ammesso di chiedere spesso informazioni sulla qualità di ciò che mangia. Secondo il Ministero dell'Agricoltura, circa 800 kg di cibo all'anno a testa, ai quali si sommano i 300 che finiscono nella spazzatura perché marciti nel frigo o scaduti. Alimenti trasformati in sprechi che al momento dell'acquisto erano stati certamente esaminati dalla massaia e dal manager, dalla modella e dallo studente con un obiettivo. Scovata la data di scadenza, accaparrarsi la confezione con quella più lontana. Ma sulla questione non tutti hanno le idee chiare. Il sistema segue una normativa europea, spiega il colonnello Antonio Amoroso, vicecomandante dei NAS, e la scadenza è di due tipi, una perentoria da consumarsi entro, è per il cibo fresco ad alta deperibilità, l'altra, preferibilmente entro, indica il termine minimo di conservazione entro cui il prodotto non diventa dannoso ma perde le proprietà organolettiche. Per gli alimenti scaduti con data d'obbligo, l'Europa proibisce la vendita. Ma chi decide quale delle due opzioni applicare? Le aziende produttrici, dopo aver valutato caratteristiche, trattamento, tempo di trasporto, condizioni climatiche e numero di abitanti del luogo di vendita. Continua il colonnello. Partite di cibo sequestrate sono la peggior pubblicità e i marchi seri tendono a non barare sulle scadenze. Resta il fatto che toilettatura e restyling su confezioni di formaggio, passate di pomodoro artigianali, pasta fresca oppure pesce surgelato non sono episodi rari e sugli scaffali finiscono prodotti a cui, manipolata l'etichetta, è stata posticipata la scadenza. Un reato penale che sporca un settore, quello alimentare, che in Italia dovrebbe valere quanto il petrolio per gli sceicchi, ma che riesce pure a trovare una sorta di alibi. Commercianti o produttori disonesti, dice Agostino Macri dell'Unione Nazionale Consumatori, non temono intossicazioni o avvelenamenti perché sanno che mangiare un cibo scaduto non è molto più pericoloso che nutrirsi con prodotti mal conservati. Fa meno danni gustare uno yogurt scaduto da 10 giorni, al massimo perde fermenti lattici, piuttosto che un barattolo entro la data di scadenza, ma preso da un banco frigo con più gradi del previsto. Stesso discorso per i cibi freschi, che dopo la scadenza non possono essere venduti, ma consumati sì, se ben conservati. Lasciate stare la carne se il colore è marroncino e il grasso giallognolo, le mozzarelle che friggono in bocca, il pesce con l'occhio infossato, la frutta con le foglie appassite e troppo matura. Attenzione anche alle uova, il rischio è la salmonella, che tra i cibi hanno l'etichettatura più complicata. Scadenza obbligatoria entro 28 giorni da quando l'uovo è deposto, ma divieto di vendita già 7 giorni prima. Chi lo fa rischia un'accusa di frode, ma ciò non significa che l'uovo sia da buttare. Ci sono negozianti, dice Macri, che cambiano la scadenza alle scorte in magazzino, ma pure camionisti che risparmiano sulla corrente nelle celle frigo. E il rischio di proliferazione di funghi aumenta. Insomma, sono così tante le variabili che non tutti sono convinti che i limiti decisi dalle aziende siano garanzia di buon prodotto. Per i salutisti, la scadenza è indispensabile, per i razionali, indicativa, per i fatalisti, inutile. Quanto può contare una data di scadenza se poco si sa sulla produzione e conservazione di un cibo che arriva dall'altra parte del mondo per finire sulla nostra tavola? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Lisa «Si può mangiare il cibo scaduto?» dalla stampa del 27 settembre. Sia in Italia che all'estero ci sono istituti dove le lauree si possono acquistare, ma sono molto costose e non hanno alcun valore legale. Ironia della sorte. È toccato proprio ai ricercatori del CIMEA, l'istituto che si occupa di valutare le equivalenze accademiche, di trovarsi di fronte a una targa più che dubbia. Erano andati dal ristoratore dove vanno a pranzo, vicino alla sede romana dell'istituto, per informarsi su un possibile catering in occasione di un convegno. Il panettiere li ha fatti accomodare in uno studiolo dove campeggiava un attestato di laurea di un'improbabile università americana. Senza alcun valore legale, naturalmente, ma di sicuro impatto su potenziali clienti. Perché chi vuole solo un titolo di dottore, una strada ancora più semplice e molto glamour, è quella di comprarsi un titolo da una delle tantissime organizzazioni che lo offrono. Stando a un rapporto stilato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, l'Italia è al terzo posto nel mondo con 143 istituzioni irregolari. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti, con più di 400, al secondo posto il Regno Unito, con 195. Fino al 1994 il Ministero censiva le università irregolari e ne pubblicava i nomi in una circolare periodica, poi nulla più. Viale Trastevere se ne lava le mani e chi resta fregato, peggio per lui. Nonostante l'autorità garante per la concorrenza e il mercato abbia emanato negli ultimi anni circa 150 provvedimenti proprio a carico di questi diplomifici. Come rivela uno studio condotto dai ricercatori del CIMEA guidati da Carlo Finocchietti che analizza a fondo la situazione. Colpita dall'Authority è stata ad esempio The Yorker International University, che rilascia honorary degrees e doctorate in varie discipline, come le scienze immobiliari. La cerimonia di consegna dei titoli avviene tra i damaschi di Palazzo Borghese a Firenze, con allori e ermellini di contorno. Un peccato di vanità a pagamento, lo definisce Finocchietti, che stima che il costo del peccato, all inclusive, si aggira sui 10.000 euro. L'autorità ha accusato la Yorker di messaggi pubblicitari che facessero infatti intendere che quelli rilasciati fossero titoli con valore legale in Italia. I diplomi irregolari rilasciati da istituti non accreditati provocano un danno sociale, commenta Finocchietti. Sono dannosi per gli studenti, che spendono tempo e soldi per procurarsi dei titoli non spendibili, per i datori di lavoro, che se non sono accorti, rischiano di assumere e dare posti di responsabilità a persone non qualificate. E la presunta regolarità dei titoli rilasciati dall'Università Popolare San Tommaso d'Aquino, blasfemo scimmiottamento della blasonatissima e vaticana Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, ha attirato l'attenzione della PM parmense Paola Dal Monte, che il 21 gennaio del 2009 ha mandato i carabinieri a sirene spiegate nella sede di Zibello dell'Ateneo e accusato i vertici di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Per più di 10 anni la San Tommaso aveva aiutato aspiranti laureati con supporto tecnico, legale e burocratico a conseguire lauree o diplomi in università riconosciute. Ma non si era limitata a questo. Core business dell'associazione era una collaborazione con le università rumene Tito Miorescu e Vasile Goldis, tramite le quali offriva corsi di odontoiatria in Romania. Molti gli iscritti a corsi per un titolo che in Italia non ha alcun valore legale. Ma chi ci fa caso, appeso a un muro di un paesino della Bassa? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Letizia Gabaglio e Daniela Minerva, Quasi quasi mi compro una laurea, dall'Espresso del 30 settembre.